You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli, che cavolo aspettiamo a mangiare? No, c'est 19 juin 1994 et il est 16h22 à Kigali dans le blindé de la RTLM. Avis à tous les dignes qui nous écoutent. Buona serata da Valentina Furlanetto. Questa che sentite in sottofondo dopo la nostra sigla era la radio di Mille Colline del Ruanda. La voce che sentite in sottofondo dice delle cose terribili, come gli scarafaggi non avranno scampo. Gli scarafaggi erano i vicini di casa degli Hutu, erano i Tutsi. Stiamo parlando quindi del genocidio del Ruanda, esattamente 20 anni fa, il 7 di aprile, iniziò quello che divenne un massacro. In 3 mesi questo genocidio vero e proprio fece 1 milione di morti, una guerra civile, un genocidio al quale la comunità internazionale guardò inerme, nessuno mosse un dito. Allora, stasera non iniziamo con un piatto, ma cerchiamo di capire una ricetta per capire assieme cosa si può imparare da quel conflitto e se abbiamo imparato qualcosa e se questi errori si possono non ripetere. Buona serata, Françoise Kankindi. Buonasera. Lei è nata da genitori ruandesi in Ruanda, si è rifugiata in Burundi, si è trasferita in Italia nel 92. Quando sono avvenute queste cose? Nel 1994, lei ha perso gran parte della sua famiglia e stava però in Italia. Quindi è a tutti gli effetti un'italiana con le radici in Ruanda, come molti dei nostri ospiti sono italiani con le radici altrove. Anche la presidente dell'associazione No Profit Bene Ruanda e ha scritto un bellissimo libro, Ruanda, la cattiva memoria, per Infinito Edizioni, che trovate in libreria. Allora, Françoise, ha sentito quest'audio in sottofondo che era della radio di Mille Colline? Noi siamo una radio, quella era una radio. La radio e anche i media hanno fatto molto nella propaganda per questo sterminio, no? Sì, sì, assolutamente. E hanno fatto molto perché il popolo ruandese è un popolo che ascolta la radio. Non è, la televisione non è molto diffusa nelle case dei ruandesi, solo alcuni ruandesi benestanti che vivono nella capitale o comunque di un certo reddito posseggono la televisione. Quindi nel 94 la maggior parte della popolazione era incollata alla radio e c'è un'inclinazione a credere che tutto ciò che dice la radio sia sia la Bibbia, sia proprio la verità sacrosanto. Quindi le autorità ruandesi hanno sempre pubblicato tutto quello che succede della vita pubblica tramite la radio. Questa radio che diceva andate a lavorare, così diceva addirittura, voi Hutu siete bravi lavoratori, siete bravi agricoltori, sapete usare bene il macete, andate a sradicare l'erba cattiva, andate a sradicare gli scarafaggi. Che erano i Tutsi. Assolutamente, poi diceva di più, diceva l'errore che abbiamo commesso dal 59 di non sradicare le radici di questi alberi alti, non la dobbiamo più commettere, dobbiamo uccidere anche i neonati, anche i feti nelle pance delle loro madri, ecco che le donne incinte sono state sventrate. La comunità internazionale non si è praticamente mossa in quell'occasione. C'era un generale canadese, no, capo dei contingenti caschi blu dell'ONU, che si era reso conto di quello che stava per accadere e ha lanciato l'allarme. Cosa è successo? Ha mandato un fax al suo capo di allora, che era Kofi Annan, chiedendogli il permesso, anzi informandogli che lui aveva saputo dove erano nascosti le armi, le macete, e che intendeva andare a sequestrarli. Le Nazioni Unite, il suo capo Kofi Annan, seguito anche a quello che è ottenuto dal Consiglio di Sicurezza, gli ha negato l'intervento, e questo avveniva tre mesi prima del genocidio, nel gennaio 94. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit. Questa è la canzone di Stromae, un giovane cantante belga di origini ruandesi, un idolo per i teenager, è stato anche a Sanremo di recente. E questa canzone parla proprio dell'assenza del padre, padre di questo cantante che è morto proprio nei massacri in Ruanda del 94. Quindi quella realtà lontana nel tempo e nello spazio ci insegue, Françoise. Sì, veramente anch'io quando ho sentito la canzone di Stromae, che mi fa venire la pelle d'oca, che la sua domanda è una domanda di un'intera generazione di ragazzi ventenni come lui, ruandesi, che hanno perso i genitori, i parenti, tutti nel genocidio del 94. Anche se Stromae proprio anche precisa che il motivo per cui ha cantato è una mancanza di un padre, non legata necessariamente al fatto del genocidio, però il fatto che lui non lo potrà mai più vedere, perché è aggravato dal fatto che il genocidio comunque l'ha portato via. Il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Dei tutti del Ruanda è un genocidio pianificato molto tempo prima, nei minimi dettagli. C'erano gli elenchi delle persone da uccidere. Esattamente, così come erano le istruzioni impartite alla Lazio, così come erano le formazioni delle milizie genocidarie che avvenivano alla luce del sole, con tanto di formatori francesi che erano presenti in Ruanda. Françoise, lei è arrivata dal Burundi, perché i suoi genitori erano dovuti scappare dal Ruanda già nel 59, no? Quando c'era stato il primo genocidio, come lei ricordava, degli Hutu nei confronti della minoranza Tutsi. Si erano rifugiati in Burundi, da genitori ruandesi si è trasferita nel 92 in Italia. Come mai? Sono arrivata in Italia perché dovevo venire, ho avuto l'opportunità di venire a studiare, aiutata da mia sorella che aveva sposato un marito italiano. Quindi lei studiava economia e commercio, era una studentessa all'università, e nel famoso aprile 94, 20 anni fa esattamente, dov'era, cosa faceva? Io andavo alla facoltà di economia e commercio come tanti dei miei amici, mi sedevo sul banco, ma sapevo quello che stava succedendo a casa mia, perché io ero arrivato in Italia giugno 92, e mentre sapevo che mio fratello era partito al fronte patriottico per cercare di ottenere il diritto per noi di avere una patria. Quindi io vivevo tranquillamente a Milano con la suocera di mio cognato, e conducevo una vita di una studentessa. E in 3 mesi ha assistito da lontano al massacro del suo paese. Ci sono stati dei familiari che hanno perso la vita della sua famiglia in quel genocidio? Sì, mi mia madre che aveva raggiunto mio padre in Burundi, in esilio, aveva tutta la sua famiglia in Ruanda. Mio padre aveva dei fratelli, due fratelli e una sorella in Ruanda, tutti sono stati massacrati. L'intera famiglia di mia madre, più o meno partendo anche dagli zii, dai nipoti, pronipoti, un componente di 300 persone sono stati tutti massacrati, buttati nella fossa comune. You've got to give a little... Indovina chi viene a cena. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Questa tragedia del Ruanda ci insegue per vari motivi, perché anche adesso in Siria sta succedendo un massacro, non forse un genocidio, ma insomma la comunità internazionale è inerme. È quello che stavamo dicendo prima, no? Insieme a lei il libro è stato scritto anche da Daniele Scaglione, che è stato presidente di Amnesty International. Allora sentiamo la sua intervista. Le Nazioni Unite hanno fatto di tutto per lavarsene le mani. Io credo che il momento più brutto della storia delle Nazioni Unite sia quel 21 aprile in cui il Consiglio di Sicurezza discute fino a tarda notte pur di evitare di usare la parola genocidio per quello che sta succedendo in Ruanda. E questa mi pare la lezione più importante da imparare, cioè assumersi le responsabilità e non cercare di scaricarle altrove. Tra l'altro con la creazione di campi profughi in cui poi si scoprì che anche le milizie, in quel caso Hutu, andavano a rinfocillarsi nei campi profughi per poi uscire a combattere. Esattamente, questo perché quando le milizie genocide Hutu capiscono che la guerra è persa, che il fronte patriottico ruandese guidato da Paul Kagame sta per vincere, scappano, ma nello scappare trascinano dietro di sé milioni di persone che erano tanti Hutu e non tutti responsabili di crimini, e riescono anche, le milizie genocide intendo, riescono anche a strumentalizzare gli aiuti umanitari che arrivano, e sono poche le organizzazioni che hanno il coraggio di dire noi non ci stiamo qua perché finiamo per sostenere dei genocidi. Medici Senza Frontiere lo farà, ma pochi altri seguiranno il loro esempio positivo. Da tutti questi errori, noi secondo lei possiamo imparare qualcosa? Abbiamo imparato qualcosa? Perché guardando alla Siria, quello che sta accadendo da ormai 3 anni in Siria, parrebbe di no. Non abbiamo imparato assolutamente nulla, e soprattutto stiamo facendo una cosa gravissima, cioè anziché ricercare le responsabilità individuali delle persone e renderci conto che se certe cose sono accadute non è accaduto perché l'ONU in sé ha sbagliato, ma perché determinate persone che avevano dei ruoli di responsabilità hanno fatto gravi errori, noi confondendo questa cosa qua andiamo a minare quelle che sono le speranze di salvezza. C'è un ONU che funziona bene, mi spiego con due nomi. Il primo è quello di Kofi Annan, che lui era a capo delle operazioni di peacekeeping, era vice segretario generale dell'ONU, in buona o mala fede ha fatto degli errori molto gravi, e nonostante questo poi ha fatto carriera, è diventato segretario generale dell'ONU e lo è stato per 2 mandati. All'interno del Consiglio di Sicurezza c'era invece l'ambasciatore della Repubblica Ceca, Karel Kovanda, e lui ha parlato chiaro, lui ha detto lì c'è un genocidio, noi come Consiglio di Sicurezza dobbiamo farcene carico, dobbiamo intervenire. È stato schermito, gli è stato sostanzialmente detto non sei diplomatico, rovini tutto, quindi stai buono. Al di là del termine riconciliazione che si fa molto in queste ore, in realtà ci sono ancora molti veleni anche a livello internazionale. L'ambasciatore francese in Ruanda è stato definito persona non grata adesso, perché il presidente del Ruanda ha detto che la Francia è responsabile di quello che è accaduto. È così in effetti? È la Francia responsabile? La Francia è molto responsabile, non è l'unica naturalmente, ma ha un ruolo particolarmente grave, quello di chi ha sostenuto il regime che ha preparato il genocidio e che ha sostenuto poi anche gli estremisti che nel genocidio, durante il genocidio governavano il paese, li hanno sostenuti militarmente, addestrando le milizie armate che hanno fatto i peggiori massacri, li hanno sostenuti politicamente, difendendo sempre e comunque chi governava Ruanda, anche quando a governarlo erano coloro che adesso sono stati condannati all'ergastolo nel Tribunale Internazionale di Arusha. E col passare degli anni la Francia non è mai riuscita a fare autocritica, che sia il potere la destra o la sinistra, non cambia niente su questo. Quindi la Francia ha un ruolo, una responsabilità indubbiamente gravissima in quello che è successo. Daniele Scaglione dice, Françoise, che insomma la Francia ha molte responsabilità, anche secondo lei? Sì, assolutamente, perché non solo la Francia si siede nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi conosceva bene la nostra storia, quello che stava avvenendo. Quindi magari se gli altri hanno detto non lo sapevamo, ma la Francia lo sapeva, ma sapeva anche di essere coinvolta nell'organizzazione di quel genocidio. Ecco, la doppia colpevolezza della Francia. E questo è anche aggravato dal fatto che subito dopo l'abbattimento dell'aereo la Francia ha lanciato il rumor che l'aereo fosse abbattuto dal fronte patriottico ruandese. Quella è una prova che tutto era studiato a tavolino, che il genocidio doveva essere attribuito al fronte patriottico per giustificare l'ira dagli Hutu verso i Tutsi. Tutto questo è documentato e fior di scrittori francesi sono i primi che hanno documentato la responsabilità del loro paese e si dichiarano veramente non d'accordo e assolutamente vogliono dimostrare che quello che è stato fatto non può essere attribuito alla loro coscienza. Ecco. È un genocidio che è stato in realtà raccontato anche in Occidente da alcuni film. Uno di questi, vi faccio sentire un breve stralcio, è Hotel Ruanda del 2004. Mi chiamo Paul Rusesabagina. Sono il direttore dell'hotel più lussuoso della capitale del Ruanda. Un posto che la mia famiglia e io consideravamo la nostra casa. Fino al giorno in cui tutto cambiò. Papà, ci sono i soldati, sulla strada! Tratto da una storia vera. Stanno ammazzando tutti! È un massacro. Ci sono qui le Nazioni Unite ora. Siamo qui per mantenere la pace, non per costruirla. Sono al cancello. Questo è un hotel a 4 stelle, non un campo profughi. Non ho i mezzi per proteggere queste persone. Quando un paese piombò nella follia. Stanno uccidendo i bambini Tutsi per spazzare via la prossima generazione. No! E il mondo gli voltò le spalle. Come fanno a non intervenire? Stanno morendo a centinaia di migliaia. Quando lo vedranno in TV diranno, oh mio Dio, è orribile. E continueranno a mangiare. Un uomo si trovò davanti a una scelta. Tutti i bianchi se ne stanno andando, anche i soldati dell'ONU. Le tue superpotenze, tutto ciò in cui credi, Paul, non fermeranno il massacro. Siamo stati abbandonati. Non ci sarà alcun aiuto, dovremo salvarci da soli. State giù a terra! Françoise, le è piaciuto questo film? Rispecchia la realtà? Il film l'ho visto proprio in anteprima italiana all'auditorium e mi ha dato un sapore di un romanzo holdiano, cioè l'intenzione di fondo è buona, nel senso ha trasmesso, è riuscito ad arrivare, è il film che è più distribuito sul genocidio dei Tutsi Ruanda, racconta quei fatti, ha preso delle cose che comunque riescono a risvegliare il pubblico, a fare capire quello che è successo. L'unica pecca è che Hotel Ruanda si basa su una storia, su un mito che purtroppo noi avremmo voluto che ci sia, ma non è stato così. Paghina non è quell'eroe di cui il film racconta, perché tutti i sopravvissuti di Mircolina si ricordano di lui come quello che gli chiedeva di pagare la camera con una puntualità pazzesca. Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, et ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Et... Lei è tornata in Ruanda? Sì, io sono tornata varie volte, 95, per rendermi conto dell'abisso dove eravamo caduti, no? La casa dei miei era una casa macchiata di sangue, di pallottole, un popolo proprio fantasma, un paese fantasma. Dopo sono ritornata ai funerali di mia madre, di mio padre, pian pianino, nel 2005 ho riportato mio figlio. E sono tornata anche ad agosto l'anno scorso, dove veramente ho potuto toccare con la mano una trasformazione della società, di un paese che si vuole riprendere in mano, un processo di riconciliazione basato su dei fatti, delle esperienze della nostra cultura che sono ghiacciata, che hanno aiutato a ripercorrere quelle pagine così sanguinose all'interno dei villaggi, nel confronto tra vicini e sopravvissuti assassini, e da lì il paese si è costruito. Lei è sposata anche con una persona che proviene dal Ruanda. Suo marito, tra l'altro, era in Ruanda in quel periodo, no? Sì, mio marito era in Ruanda, stava con il fronte patriottico assieme a mio fratello. Lui fa parte di quelli che hanno attraversato quei fiumi di cadaveri dei nostri e hanno dovuto fermare quel genocidio. E con una disperazione, una solitudine infinita, perché nessuno ha mai voluto rendersi conto e ammettere che alla fine noi tutti eravamo delle vittime, eravamo quelli che dovevano essere sterminati, ma abbiamo anche dovuto fermare quel genocidio e ricostruire il paese. Un paese ricostruito anche, come ricordava lei, con una gran velocità, c'è l'economia che galoppa in Ruanda, una crescita dell'8%. Lei ha trovato un paese, leggevo, nel quale ora vorrebbe tornare a vivere, è così? È vero, è così. Ruanda è un paese veramente ordinato, è un paese che sì, adesso a capitale di Ruanda uno si ritroverebbe nell'aprile del 94, perché il mese di aprile è un mese maledetto per tutti i ruandesi, perché si rivivono quei momenti, si va negli stadi, ci si confronta, ma dopo ci si deve anche rimboccare le maniche per andare avanti. Ecco, il Ruanda è un paese veramente che ha saputo trarre una lezione da quelle macerie, come dice Yolande Mukagasana, che quando uno è caduto così in basso dal fondo ha solo due scelte: o ci rimani o ti rialzi. Il Ruanda ha scelto di rialzarsi. Torniamo alla domanda iniziale con la quale abbiamo iniziato la trasmissione. Abbiamo imparato qualcosa? Lo abbiamo chiesto anche all'ex ministro Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Ci sono responsabilità molto gravi della comunità internazionale e delle Nazioni Unite su cui ormai si è fatto luce. Purtroppo devo dire che davanti alle situazioni genocidarie spesso la comunità internazionale si perde nei suoi giochi formali o nelle sue contrapposizioni. Ora, per esempio, abbiamo il caso del Centrafrica. Anche in Siria probabilmente. Il paragone va posto. Io la ringrazio di averlo posto, perché della Siria non parliamo più. La Siria è qualcosa di orribile, decine di migliaia di morti, e anche lì ci sono delle responsabilità, perché se noi immediatamente fossimo intervenuti con forza e non avessimo lasciato radicalizzare la situazione, non si sarebbe finiti in questo modo. Però per quello che riguarda il Ruanda, lì è una storia veramente drammatica. In fondo Hutu e Tutsi non hanno alcuna differenza tra di loro, se non una differenza storica, parlano la stessa lingua, sono tutti cattolici. E i bambini Hutu e Tutsi giocavano insieme tra vicini, è veramente assurdo. Françoise, abbiamo imparato qualcosa con l'ex ministro Riccardi, con il coautore di questo libro, Daniele Scaglione, abbiamo parlato anche della Siria e ne abbiamo accennato anche qui. Perché non si ripetano questi fatti? Cosa è necessario fare? Occorre rendere l'ONU effettivo, la Convenzione del 48 che ha sancito il fatto di salvare qualsiasi civile dovunque fosse messo a rischio deve veramente essere rimesso al centro del tavolo, in modo che si possa applicare. Non solo avete ricordato la Siria, ma ricordiamoci che nella Repubblica Centrafricana, lì accanto del Ruanda, sta succedendo la stessa cosa, no? In Darfur ieri succedeva la stessa cosa. Quindi sì, quale lezione abbiamo appreso? Nessuno, io direi, no? Visto che i massacri ricominciano di nuovo, i civili stanno lì sotto assedio, ma il cappello che l'ONU si era dato per difendere chiunque fosse perseguitato perché per quello che è, per la sua nascita, per la sua natura stessa, non dovesse mai più succedere, non si è mai messo in atto, ecco. Secondo lei del Ruanda in Italia si parla correttamente? Spesso si è sentito parlare di questa tragedia come di un conflitto tribale. In realtà no. Tutsi e Hutu non sono diversi per religione o altro, era solo una definizione coloniale, quindi tutta occidentale, no? Sì, cioè in Italia, purtroppo l'Italia dell'Africa e soprattutto del Ruanda ha ripreso molto l'informazione che la Francia ha passato, quindi la France Presse piuttosto che un giornalismo di inchiesta che ha cercato di capire. Mi sono resa conto di questo, ho cercato di dare quel contributo con Daniele scrivendo quel libro, perché tante volte si dice un genocidio ruandese, come se dire il genocidio degli ebrei si dovrebbe dire un genocidio europeo, non avrebbe senso. Un genocidio ha un popolo che vuole sterminare, e quel popolo che si voleva sterminare nel 94 erano i Tutsi, quindi quel genocidio dei Tutsi del Ruanda, non per mistificare, ma anche perché ultimamente abbiamo tanti negazionisti che, nascondendosi dietro questa generalizzazione così, dicono in realtà guardate che qui il genocidio ruandese, visto che c'erano anche di Hutu, era un genocidio degli Hutu e dei Tutsi, per cui vi rendete conto che alle vittime è una beffa, no? Grazie a Françoise Canchindi, italo-ruandese, che ha scritto questo intenso libro Ruanda, la cattiva memoria, cosa rimane del genocidio che ha lasciato indifferente il mondo, per Infinito Edizioni, lo trovate in libreria, coautore Daniele Scaglione. Grazie a tutti voi per essere stati in ascolto questa sera, non abbiamo dato ricette vere e proprie, ma abbiamo cercato di capire un po' di più di un paese lontano, ma molti del Ruanda vivono anche in Italia e in Europa, quindi ci tocca a tutti. La puntata di oggi termina qui, io ringrazio in regia Fabio Cantadori, buona serata a Françoise Canchindi. Buonasera, grazie mille a voi, grazie, arrivederci. Buona serata a tutti, a sabato prossimo. You've got to give a little, that's the glory of love.